lotta con piccino che si ritrova lo tocce da poco tombe e di che vecchi infetti nemico l'incatole se sono un po' astaggi con segreti la telefonica arriva con ciampo poi c'è la pucina per vivo da rapporto da tutto me sentivo tipo franco braganti confini essenziale pomeriggio questi neodrammatici rumori di notifica whatsapp cavallo che fisce una tua insoccarpare voce narrante solenne un pomeriggio di questi l'umanità intera ricevette un messaggio non era una dichiarazione d'amore non era neanche la bolletta della luce era molto peggio appena sono di buon umore un pomeriggio di questi io e te dobbiamo parlare mi sveglio alle tre l'alito sa di morte e sul telefono è minaccia di corte lei non ha scritto amore non ha scritto ciao ha scritto quella frase dobbiamo parlare ma con il tono da esame colorettale appena sono di buon umore un pomeriggio io e te dobbiamo parlare e se non ti sta bene parla col mio cactus da compagnia dobbiamo parlare a parla visto co dobbiamo parlare a chi ti ha interrogato parlami quando c'è il ciclo così almeno so che sei tu e non l'inquisizione mi spoglio per fare pace lei si veste per litigare io le parlo d'amore, le cita Dostoevsky e poi mi chiede chi è sta Eva che ha messo like alla mia lasagna e così la conversazione iniziò, durò 6 ore 26 rinazioni, 2 minacce, divorzio e un feto nervoso ottone ripico, parodico, tipo musical dobbiamo parlare sul senso della vita dobbiamo parlare morti o pendenza ma non rompere il bidet intanto io preparo le valigie musica si spegne a poco resta solo la voce narrante e mentre il sole tramontava lui capì una cosa non era amore non era odio era convivenza